later than you think. La fabbrica di polli si sente da lontano, il sordido richiamo di una vita in batteria. Dietro quei cancelli che cosa nasce prima? L'uovo, la gallina, le penne o i calamai? La fabbrica di polli produce, non chiude, non chiude. La fabbrica di polli produce, non cuoce, quasi mai. E mentre nella fabbrica di polli tutto scorre nella più pigra indifferenza, K e Drago, sono sempre K e Drago. We tell you this frankly. If you wish to avoid the excitement and tension of these imaginative plays, we urge you, calmly but sincerely, to turn off your radio now. Cappa, cosa c'è? Non riesco più a vederci bene, non so. Per forza, Drago, ti si sono spostati gli occhi ai lati della testa, guardati bene. Ma non è possibile. Non sarà possibile, ma intanto tu hai gli occhi ai lati della testa. Come in un quadro cubista. No, come una gallina, vorrei dire. Una gallina in un quadro cubista. No, perché la gallina nel quadro cubista non ha gli occhi ai lati della testa, perché sennò che quadro cubista sarebbe? Cioè. Ti volevo dire che non è esattamente che non ci vedo più, solo che ci vedo diversamente. E per vedere dritto davanti a me devo mettermi di profilo, così. Come gli strabici. Ah, che bello, che ridere. Che ridere. Come gli strabici, così offendi in un colpo solo me e gli strabici, dai. Ma dai, Drago, l'hai detto anche tu, non è che non ci vedi, è che ci vedi diversamente. Devi solo adattarti, adattati. Mi adatto, però tu perché invece hai gli occhi ancora al loro posto? Perché io forse ho gli occhiali. Hai mai visto un pollo con gli occhiali? Cioè, stai dicendo che per difendersi dalla pollizzazione basta avere gli occhiali, dai. Dai, ma che stupidaggine. Stai subendo la stupidizzazione. Anzi, la stupidipazione. Come hai detto? La stupidipazione. Allora tu non sei Drago. E cioè un mini scrittore. Ma insomma, tu sei niente meno che super scrittore. La pollizzazione, la globalizzazione, la stupidizzazione, cose così. Super scrittore. Il mio nuovo libro si chiama Zizzagna, Zenzero, Zampare e cose così. Super scrittore. You are the cattle and we are the keepers. Avete a proposito una cosa che volevo domandare, per capire se sei veramente così cornuto, anche se sei un piccione. Ciò dicessi tu a mia moglie da un mi portaste l'altra sera con la macchina, da che te bette pecciottine, Ciò dicessi tu? Cornuto, sogno cosa da dire a mia moglie, Bacille, stupido, non sei per niente come tuo pace. Tony, il mio grandissimo amico Tony. Peccato che sia scandato su 106 barrasi. Lo so, Vito. Non dovrei ricordarti queste cose, ma lo faccio perché sei un cretino tu. Devi imparare da tuo padre che invece era un bravissimo pecciotto. Ma me lo spieghi adesso io che ci dico a mia moglie, Certo, però forse una cosa ce la potrei dire. Cioè dico, amore tesoro, ho visto così da vicino la morte in faccia che per una sera nella vita ho voluto vedere da nuovo da dove nasce la vita, da vicino, capisci? Mi sembra una buona idea. Mi hai picchiato un volato, Ah, buono, Vito. Allora, poi ci pensiamo a cosa dici. Adesso, riportami lei, ma non deve dire niente a nessuno. Capisti? Bravo, Vito. Così mi piace. La giunta ha stabilito, mangime avvelenato, per tutta la nazione cresce la tensione. Oh, oh mio Dio, un piccione. Un piccione, un piccione. Un piccione, un piccione. Dobbiamo trovare la soluzione. Sei solo sulla gente. E poi sei un piccione, un piccione, un piccione. Tu sei solo un piccione, sei solo un cacciagione, la cacciagione. Io che no, io che no. Abbassi i piccioni, che schifo. Puzza, puzza i piccioni, puzzano i piccioni. Drago! Ehi! Drago, ho un'idea per fare i soldi. Ah, evviva! E cos'è? Servizi per la telefonia. Ah beh, sai che novità, arrivi per ultimo, capo, no. Dai, telefonia. No, senti che bella idea. Tu chiami un numero e puoi chiedere a un bravissimo musicista di cantare un pezzo per te e tu puoi registrarlo col telefonino e mandarlo alla tua ragazza. Sì, vabbè, come funziona, scusa? Ci sono dei call center con centinaia di bravissimi musicisti che aspettano la telefonata di un adolescente che chiede la nuova canzone di Hilary Duff. Esatto, così. E chi li trova i bravissimi musicisti? Ma non so, io proporrei sul modello sovietico di creare una specie di commissione di esperti che seleziona i talenti meritevoli di diventare bravissimi musicisti. Capito? Poi i bravissimi musicisti vengono assunti a tempo indeterminato con un coco pro, con un coco pro dalla compagnia telefonica e passano il loro tempo a cantare dal vivo nei call center. Bello, no? Aspetta che provo e vedo che bravissimo musicista c'è dall'altra parte. Prova! Te ne suono e te ne canto, sono Gaetano, in cosa posso esserti utile? Ma Kappa, sei tu il bravissimo musicista alla fine? Scusi, sto lavorando, non posso perdere tempo. Ma Kappa, mi dice per cortesia quale canzone devo cantare? Allora, io vorrei Twist and Shout che diventa La Bamba. È sicuro di non preferire La Bamba che diventa Twist and Shout? Dai, è uguale. Forse per lei, non certo per me. C'è una bella differenza. In un caso devo cantare prima Twist and Shout e poi La Bamba. Nell'altro devo... Ho capito, ha ragione, scusi. Allora, senta, facciamo così, ho cambiato idea. Non si potrebbe. Cosa? Cambiare idea. In che senso? Nel senso che se cambia idea dovrebbe riagganciare e richiamare. Ma è assurdo. Mica tanto. Tecnicamente lei ha già espresso la sua preferenza per una canzone. Ma sì, vabbè, però... Tecnicamente io devo eseguire quella canzone. Lei pagherà per quella canzone. Ma sì, vabbè. Se poi ne vuole un'altra, riaggancia e richiama. No, vabbè, allora va bene Twist and Shout che diventa La Bamba. In quell'ordine? Sì. Ok. K. Mi dica. E la canzone? Prima devo leggerle la normativa sul trattamento dei dati personali nella sua interezza, perché sennò commettiamo reato e arriva Rodotà e ci rompe il c***o. No, aspetti, no, aspetta, K. Articolo 1. No. La presente legge garantisce che il trattamento dei dati personali si svolga nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali, nonché della dignità delle persone fisiche, con particolare riferimento alla riservatezza e all'identità personale. Garantisce altresì i diritti. Ma questo servizio fa schifo, K. Quando si dice far girare la musica sui telefonini, non si intende mica questo. Non è di mia sfera di competenza. Io ho chiesto 10 minuti fa una canzone, siamo ancora ai preliminari. Ma io sono stato assunto a tempo indeterminato con un coco pro, proprio un coco pro. Ho vinto il concorso, un pro. Sono illicenziabile. Che cosa me ne frega a me di lei? No, ma Kappa. No. Ma Kappa, ma perché fai sto schifo? Io ti ho chiesto Twist and Shout che diventa La Bamba. Ma come più o meno? Più o meno fa schifo. Ma come? Vuoi cantare tu? Ma io ho pagato. Grazie per aver chiamato. Che diventa La Bamba. Che cosa succederà adesso? Eh? Che cosa succederà? Non lo sapete? Nemmeno noi. E allora? Allora tutti puntuali domani a mezzanotte su Radio 3 per il prossimo caleidoscopico allestimento de... La Fabbrica di Polli. La Fabbrica di Polli produce, non chiude. Bar Lumen.